Quando ve li portò il primo giorno, camminò davanti a loro, perché non sta bene che padri e figli camminino fianco a fianco, e portò un fazzoletto azzurro pieno di uova fresche, che quando arrivò diede al maestro. E Wang Lung fu molto impressionato dai grandi occhiali di ottone del maestro, e dalla lunga e morbida veste nera, e dal gigantesco ventaglio che usava persino in inverno. E Wang Lung si piegò davanti a lui e disse: «Signore, qui ci sono i miei due inutili figli. Se qualcosa si può infilare in quei loro spessi crani di ottone, è solo furia di botte, e perciò mi faccia il piacere di batterli per farli imparare». I due ragazzini, in piedi, fissavano gli altri seduti sulle panche, e questi fissavano di rimando i due. Ma mentre ritornava a casa da solo, dopo aver lasciato i due figli, e il cuore di Wang Lung stava per scoppiare di orgoglio, e gli sembrava che fra tutti i ragazzi nella stanza nessuno fosse alto e robusto e avesse la faccia bruna e sveglia come i suoi. Mentre attraversava la porta della città, incontrò un vicino che arrivava dal villaggio e, rispondendo alla sua domanda, disse: «Sto tornando dopo aver portato i miei figli a scuola». E alla sorpresa dell'uomo rispose con apparente indifferenza: «Oh, nei campi ormai non mi servono, e allora tanto vale che imparino un mucchio di caratteri». Ma passando oltre disse fra sé: «Non mi stupirebbe affatto se con tanto studio il maggiore dovesse diventare un prefetto». E da allora i due ragazzi non furono più chiamati maggiore e minore, ma il vecchio maestro diede loro dei nomi per la scuola, che compose dopo essersi informato sull'occupazione del padre. Per il maggiore Nung En e per il secondo Nung Wen, dove la prima parola di ciascun nome indicava una persona la cui ricchezza viene dalla terra. 18. Così Wang Lung costruì le fortune della sua casa. E quando arrivò il settimo anno e il grande fiume a nord era troppo gravido di acque a causa delle piogge eccessive e delle nevi a nord-ovest, dove era la sua sorgente, ecco che ruppe i suoi argini e si riversò sulle terre di quella regione, spazzando e inondando tutto. Ma Wang Lung non aveva paura, non aveva paura, anche se la sua terra per due quinti era un lago in cui l'acqua arrivava alle spalle di un uomo o anche più. Durante tutta la tarda primavera e il principio dell'estate, l'acqua salì e alla fine era come un grande mare, bello e indolente, che faceva da specchio alle nuvole e alla luna e ai salici e ai bambù, i cui tronchi erano sommersi. Qui e là, una casa di terra abbandonata dai suoi abitanti resisteva, ma dopo giorni d'acqua tornava lentamente all'acqua e alla terra. E succedeva così a tutte le case che non erano costruite su una collina, come era invece quella di Wang Lung. E le colline affioravano come isole, e la gente andava e veniva dalla città in barca e in canoa, e c'erano quelli che morivano di fame, come era sempre stato. Ma Wang Lung non aveva paura. I mercati del grano gli dovevano soldi, e i suoi magazzini erano ancora pieni dei raccolti degli ultimi 2 anni, e le sue case erano così in alto che l'acqua era piuttosto distante, e lui non aveva nulla da temere. Ma buona parte della terra non si poteva coltivare. E quindi lui era più pigro di quanto fosse mai stato nella sua vita, ed essendo pigro e pieno di buon cibo, divenne impaziente, dopo che ebbe dormito più che poteva e fatto tutto quel che si doveva fare. E c'erano inoltre i braccianti che assoldava per un anno intero, e sarebbe stato stupido per lui lavorare quando c'era chi mangiava il suo riso e se ne stava quasi in ozio, aspettando giorno dopo giorno che le acque si ritirassero. E quindi, dopo aver ordinato loro di riparare la copertura di paglia del tetto della casa vecchia e di sistemare le tegole dove il tetto nuovo faceva passare l'acqua e di riparare le zappe, i rastrelli e gli aratri e di dar da mangiare al bestiame e di comprare uno stormo di anatre e di intrecciare la canapa per farne corde, tutte cose che un tempo faceva lui quando coltivava la terra da solo, le sue mani a quel punto erano vuote e non sapeva cosa fare. Un uomo non può star seduto tutto il giorno e fissare un lago d'acqua che copre i suoi campi. E non può nemmeno mangiare più di quel che suo stomaco può contenere. E quando Wang Lung ebbe dormito, anche col dormire era finita. La casa in cui vagava con impazienza era silenziosa, troppo silenziosa per il suo sangue robusto. Il vecchio era ormai molto debole, mezzo cieco e quasi completamente sordo, e non c'era bisogno di parlare con lui se non per chiedergli se aveva freddo, se aveva mangiato o se voleva del tè. E E Wang Lung si irritava che il vecchio non riuscisse a vedere quanto era ricco suo figlio e che borbottasse sempre se c'erano foglie di tè nella sua ciotola. Un po' d'acqua è sufficiente, il tè è come l'argento. Ma non aveva senso dirgli qualcosa perché se ne dimenticava subito e viveva ritirato nel suo mondo e per buona parte del tempo sognava di essere nuovamente giovane e nel pieno delle forze e vedeva poco di quel che succedeva ora. Il vecchio e la bambina più grande, che non parlava affatto e stava seduta ore e ore accanto al nonno, rigirando un pezzo di stoffa, piegandolo e ripiegandolo e sorridendo, non avevano niente da dire a un uomo prospero e vigoroso. Dopo che Wang Lung aveva versato al vecchio una ciotola di tè e passato la mano sulla guancia della bambina, ricevendo il suo sorriso dolce e vuoto, che scompariva con triste rapidità dal suo viso, lasciando vuoti quegli occhi spenti e opachi, non c'era più altro da fare. Allontanandosi da lei, restava sempre un attimo in silenzio ed era quello il marchio della tristezza di sua figlia su di lui. E Wang Lung guardava allora i due più piccoli, il maschio e la femmina che Olan aveva partorito insieme e che adesso correvano allegri davanti alla soglia. Ma un uomo non può accontentarsi dell'allegria sciocca dei bambini piccoli. E dopo aver riso e scherzato per un po', questi tornavano ai loro giochi e Wang Lung rimaneva solo e pieno di inquietudine. Fu così che gli accadde di guardare Olan, sua moglie, come un uomo guarda una donna il cui corpo conosce perfettamente e a sazietà, e che ha vissuto a così stretto contatto con lui che non c'è niente di lei che non conosca e niente di nuovo che possa aspettarsi o sperare da lei. Gli sembrò di guardare Olan per la prima volta nella sua vita. E per la prima volta vide che nessun uomo avrebbe potuto vedere in lei altro che quello che era, cioè una donna spenta e ordinaria che sgobbava in silenzio, senza pensare a come appariva agli altri. Per la prima volta vide che i suoi capelli erano ruvidi e marroni e non lucidi, e che la sua faccia era larga e piatta e la pelle scabra e i suoi lineamenti grossolani e senza nessun genere di bellezza o di luce. Le sopracciglia erano troppo estese e rade, le labbra troppo larghe, le mani e i piedi grossi e larghi. Guardandola così, con un'espressione strana, la investì. Chiunque guardandoti direbbe che sei la moglie di un uomo qualunque e non di uno che possiede dei campi e che assolda gente per lavorarli. Era la prima volta che le diceva come gli apparisse. E lei rispose con uno sguardo lento e doloroso. Sedeva su una panca facendo passare un lungo ago dentro e fuori dalla suola di una scarpa e si fermò con l'ago sospeso e la bocca spalancata e mostrò i denti anneriti. Poi, come se finalmente avesse capito che lui la stava guardando come un uomo guarda una donna, un'intensa vampata le salì fin sopra gli alti zigomi e mormorò: «Da quando gli ultimi due sono nati insieme non sono più stata bene, c'è del fuoco nelle mie viscere». E Wang Lung capì che nella sua semplicità lei pensava che la stesse accusando perché da più di 7 anni non aveva più concepito. E lui rispose più aspramente di quanto avrebbe voluto: «Voglio dire, non puoi comprarti un po' d'olio per i capelli come fanno le altre donne e cucirti una giacca nuova di stoffa nera? E quelle scarpe non sono adatte alla moglie di un proprietario terriero». Ma lei non rispose niente, lo guardò solo umilmente. E senza sapere cosa faceva, e nascose i piedi uno sull'altro, sotto la panca su cui sedeva. Poi, pur vergognandosi dentro di sé perché rimproverava quella creatura che per tanti anni lo aveva seguito fedelmente come un cane, e pur ricordando che quando era povero e lavorava nei campi lei si alzava dal letto persino dopo un parto per aiutarlo nel raccolto, Wang Lung non riuscì a contenere l'irritazione che gli gonfiava il petto e proseguì spietato, sebbene contro la sua intima volontà. «Ho faticato e sono diventato ricco e vorrei che mia moglie non assomigliasse tanto a una zotica. E i tuoi piedi?» Si fermò. Lei gli sembrava nell'insieme ripugnante, ma più ripugnanti di tutto erano i suoi grandi piedi nelle comode scarpe di tela e li guardò con rabbia tanto che lei li spinse ancora più sotto la panca e alla fine disse in un sussurro: «Mia madre non me li ha bendati perché ero così piccola quando mi hanno venduta, ma benderò i piedi della bambina più piccola li benderò». Ma lui si allontanò in fretta perché si vergognava di essere arrabbiato con lei. e rabbioso perché invece lei non provava rabbia in risposta, ma solo paura. Indossò la nuova veste e disse con stizza: «Bene, andrò alla casa da te a sentire se c'è qualcosa di nuovo. In casa mia non c'è nessuno se non folli e un vecchio rimbambito e due bambini». Il suo malumore crebbe mentre camminava verso la città, perché all'improvviso gli tornò in mente che non avrebbe potuto comprare quelle sue nuove terre in una vita intera se Olanna non si fosse impadronita dei gioielli in casa del ricco e se non glieli avesse dati al suo comando. Ma nel pensarci fu tanto più pieno di rabbia e disse, come ribellandosi in risposta al proprio cuore: «Beh, ma non sapeva cosa stava facendo. Li ha presi perché le piacevano, come un bambino può prendere una manciata di caramelle rosse e verdi e li avrebbe tenuti nascosti sempre sul petto se io non li avessi trovati». Poi si chiese se teneva ancora le perle nascoste fra i seni, ma se in passato gli era parso curioso e qualcosa a cui pensare a volte da immaginarsi nella mente, adesso ci pensò con disprezzo perché i suoi seni erano diventati flaccidi e penduli dopo tanti figli e non avevano nessuna bellezza, e le perle lì erano assurde e sprecate. Tutto questo però non avrebbe significato niente se Wang Lung fosse stato ancora povero o se l'acqua non avesse allagato i suoi campi, ma aveva soldi. C'era dell'argento nascosto nei muri della sua casa e c'era un sacco d'argento sepolto sotto una piastrella nel pavimento della sua nuova casa e c'era argento avvolto in un pezzo di stoffa nella stanza dove dormiva con sua moglie e dell'argento cucito nella stuoia sotto il loro letto e la sua cintura era piena d'argento e ne aveva a sufficienza, tanto che invece di passare per le sue mani, come il sangue vitale cola da una ferita, stava nella sua cintura, bruciando le sue dita quando lo tastava, e pronto a essere speso in questo o quello, e cominciò a impiegarlo con disinvoltura e a pensare a cosa poteva fare per godersi il tempo della sua età virile. Ogni cosa non gli pareva più buona come prima. La casa da tè, in cui un tempo entrava timidamente, sentendosi un semplice uomo di campagna, adesso gli sembrava squallida e brutta. In passato nessuno lo conosceva e i ragazzi che servivano lo trattavano con impudenza, ma adesso la gente si faceva segno col gomito quando lui entrava e poteva sentirli sussurrare: «Eccolo, quello è Wang, del villaggio dei Wang, ha comprato la terra della casa dei Huang, l'inverno in cui l'anziano signore è morto, all'epoca della grande carestia, è ricco adesso». E sentendo questo, Wang Lung si sedeva con apparente indifferenza, ma il suo cuore era gonfio d'orgoglio per quel che era diventato. Tuttavia, quel giorno, dopo aver rimproverato sua moglie, non gli fece piacere neppure la differenza ricevuta e restò lì a bere tetro il suo tè, con la sensazione che nella sua vita nulla era buono come aveva creduto. Poi all'improvviso pensò: «Ma perché dovrei bere il mio tè in questa bottega, dove il proprietario è un tipo viscido che ti guarda strabico e che guadagna meno dei lavoranti sulla mia terra, io che ho terra e due figli istruiti?» Si alzò rapidamente e buttò i soldi sul tavolo e uscì prima che chiunque potesse parlargli. Vagò per le strade della città senza sapere cosa volesse. A un certo punto passò davanti alla baracca di un cantastorie e rimase a sedere per un po' sul bordo di una panca affollata e ascoltò il racconto dell'uomo sull'epoca dei Tre Regni, quando i guerrieri erano coraggiosi e astuti. Ma era ancora irrequieto e non riusciva ad abbandonarsi alla magia dell'arte di quell'uomo come facevano gli altri, e il suono del suo piccolo gongo di ottone lo stancò e allora si alzò e andò via. C'era ora in città una grande casa da tè aperta di recente da un uomo del sud che conosceva quel mestiere. In precedenza Wang Lung ci era passato davanti, pieno di orrore al pensiero di quanti soldi si spendevano lì nel gioco e nelle scommesse e nelle donne di malaffare. Ma adesso, guidato dall'inquietudine dovuta all'ozio e desiderando fuggire il rimprovero del suo cuore quando si ricordava che era stato ingiusto verso sua moglie, si diresse là. L'agitazione lo costringeva a vedere o sentire qualcosa di nuovo. Varcò allora la soglia della nuova casa da tè ed entrò nella grande stanza scintillante, piena di tavoli e aperta verso la strada, con fare audace e cercando tanto più di esserlo perché il suo cuore era timido e ricordava che solo negli ultimi anni aveva smesso di essere un poveraccio, che non possedeva mai più di uno o due pezzi d'argento, e un uomo che aveva persino tirato un rickshaw sulle strade di una città del sud. All'inizio, nella grande casa da tè non parlò affatto, ma comprò tranquillo il suo tè e lo beve e si guardò intorno con stupore. Quel locale era una grande sala con il soffitto bordato d'oro e sulle pareti c'erano rotoli di seta bianca su cui erano dipinte figure femminili. Wang Lung guardò di nascosto e attentamente quelle donne e gli sembravano donne dei sogni perché sulla terra non ne aveva mai viste di simili. Il primo giorno le guardò e beve in fretta il suo tè e andò via. Ma giorno dopo giorno, mentre le acque continuavano a coprire i suoi campi, lui andava alla casa da tè e comprava il suo tè e sedeva da solo a berlo e guardava le immagini delle belle donne. E ogni giorno restava più a lungo perché non aveva niente da fare sui campi o a casa. Avrebbe potuto continuare così per molti giorni di fila, perché nonostante l'argento nascosto in tanti posti, aveva ancora l'aspetto di un campagnolo ed era l'unico in quella ricca casa da tè che indossava cotone anziché seta e aveva il codino che gli scendeva lungo la schiena, come nessun uomo di città avrebbe portato. Ma una sera, che sedeva là, bevendo e guardando fisso da un tavolo vicino al fondo della sala, qualcuno scese per una stretta scalinata che partiva dalla parete più lontana e conduceva al piano superiore. Quella sala da tè era l'unico edificio in città che aveva un piano superiore, oltre alla pagoda occidentale con i suoi 5 piani fuori dalla porta ovest. Ma la pagoda era stretta e andava stringendosi ancora di più verso la cima, mentre il secondo piano della casa da tè era un quadrato grande come la parte dell'edificio che poggiava sul terreno. Di sera il canto di acute voci femminili e risate leggere uscivano fluttuando dalle finestre superiori, insieme al dolce strimpellio dei liuti sfiorati delicatamente dalle mani delle ragazze. Si poteva sentire la musica diffondersi nelle strade, in particolare dopo mezzanotte, anche se nel punto in cui sedeva Wang Lung, l'acciottolio e il rumore di molti uomini che bevevano tè e il ticchettio secco dei dadi di osso e delle tessere del domino dei passeri smorzavano tutto il resto. Fu così che quella sera Wang Lung non sentì alle sue spalle i passi di una donna che facevano scricchiolare la stretta scala e trasalì violentemente quando sentì un tocco sulla spalla, perché non si aspettava che qualcuno lì lo conoscesse. Quando alzò lo sguardo, incontrò un viso di donna affilato e bello, il viso di Cucù, la donna nelle cui mani aveva versato i gioielli il giorno in cui aveva comprato il terreno e la cui mano aveva tenuto stretta la mano tremante dell'anziano signore, aiutandolo ad apporre bene il suo sigillo sull'atto di vendita. Rise nel vederlo e la sua risata fu una specie di sussurro acuto. Ma guarda, Wang il contadino, disse indugiando con malizia sulla parola contadino. Chi avrebbe pensato di incontrarti qui? Wang Lung sentì che doveva provare a ogni costo a quella donna di essere più che un semplice campagnolo e allora rise e disse a voce troppo alta: I miei soldi non sono buoni da spendere come quelli di chiunque altro? In questi tempi i soldi non mi mancano, ho avuto buona fortuna. A quel punto Cucù si interruppe, gli occhi sottili e brillanti come quelli di un serpente, e la sua voce divenne liscia come olio che scorre fuori da un vaso. E chi non l'ha sentito? E come potrebbe un uomo spendere i soldi che gli avanzano meglio che in un posto così, dove i ricchi trovano la gioia e i signori eleganti si radunano per godere di feste e piaceri? Un altro vino come il nostro non c'è. L'hai assaggiato, Wang Lung? Oh, finora ho bevuto solo tè, rispose Wang Lung vergognandosi un po'. Non ho toccato vino né dadi. Tè! Esclamò lei scoppiando in una risata stridula. Ma abbiamo vino di ossa di tigre e vino dell'alba e vino di riso profumato. Che bisogno hai di bere tè? E quando Wang Lung chinò imbarazzato la testa, lei disse in tono dolce e insidioso: E suppongo che non hai guardato nient'altro, eh? Nessuna bella manina, nessuna guancia profumata e dolce? Wang Lung chinò ancora di più la testa e il sangue rosso affluì al suo viso e gli sembrò che lì intorno tutti lo guardassero con scherno e ascoltassero la voce della donna. Ma quando prese coraggio e lanciò un'occhiata da sotto le palpebre, vide che nessuno badava a lui e i dadi continuavano a ticchettare e disse confuso: No, no, non ho solo te. La donna rise ancora e indicò i rotoli di seta dipinti e disse: «Quelle sono le loro immagini. Scegli quella che vuoi vedere, metti l'argento nella mia mano e te la porterò». «Quelle?» disse Wang Lung sorpreso. «Pensavo fossero donne dei sogni, delle divinità sul monte Quanluen, come quelle raccontate dai cantastorie». «In effetti sono donne dei sogni», replicò Cucù prendendolo allegramente in giro, «ma sogni che un po' di argento può trasformare in carne e ossa». E si allontanò, facendo segno col capo e ammiccando ai servi lì attorno e indicando Wang Lung per far capire che si riferiva a lui. «Ecco lì un bel tonto di campagna». Ma Wang Lung fissava ora le immagini con un nuovo interesse. Su per la scala stretta, nelle stanze sopra di lui, c'erano quelle donne in carne e ossa, e degli uomini andavano su da loro, uomini diversi da lui, certo, ma uomini. Beh, e se non fosse stato l'uomo che era, un bravo lavoratore, un uomo con una moglie e dei figli, facendo finta come un bambino fa finta di volere una certa cosa, quale avrebbe fatto finta di prendere? E guardò attentamente e con intensità i visi dipinti come se fossero stati reali. Fino a quel momento gli erano parsi tutti ugualmente belli, fino a quel momento non si era trattato di scegliere, ma adesso ce n'erano chiaramente alcuni più belli degli altri, e fra oltre una ventina scelse i tre più belli, e fra i tre scelse ancora e scelse il più bello. Una creatura piccola e sottile, un corpo leggero come un bambù e un piccolo viso appuntito come il muso di un gattino. E una mano nell'atto di afferrare lo stelo di un bocciolo di loto, e la mano era delicata come il ricciolo ancora chiuso di una felce. La guardò, e mentre la guardava, un calore, come vino, prese a scorrere nelle sue vene. «È come un fiore su un albero di cotogne», disse improvvisamente a voce alta, e sentendosi si allarmò vergognoso e si alzò in fretta e posò i soldi e uscì nel buio che era già sceso e quindi tornò a casa. Ma sopra i campi e l'acqua era sospesa la luna, una rete di foschia argentata, e nel suo corpo il sangue correva nascosto, rapido e caldo. 19. Se in quel tempo le acque si fossero ritirate dalle terre di Wanglong, lasciandole bagnate e fumanti sotto il sole, tanto che dopo qualche giorno di calura estiva fosse diventato necessario ararle ed erpicarle e seminarle, forse Wang Lung non sarebbe mai tornato alla grande casa da tè. O se un bambino si fosse ammalato, o il vecchio fosse arrivato all'improvviso alla fine dei suoi giorni, Wang Lung sarebbe stato catturato da quel nuovo stato di cose e avrebbe dimenticato il viso appuntito sul rotolo e il corpo della donna sottile come bambù. Ma le acque erano sempre lì, placide e immobili. Se non al tramonto, quando si levava una leggera brezza estiva e il vecchio sonnecchiava e i due ragazzini all'alba scarpinavano fino alla scuola e stavano via fino a sera, e in quella casa Wang Lung era agitato ed evitava gli occhi di Olan, che lo guardavano tristi mentre andava di qua e di là e si buttava su una sedia e si alzava senza aver bevuto il tè che lei gli versava e senza fumare la pipa che si era acceso. Alla fine di una lunga giornata, più lunga di tutte le altre, durante il settimo mese, quando il crepuscolo indugiava dolce e pieno dei mormorii della brezza sul lago, Wang Lung stava sulla soglia di casa e all'improvviso, senza una parola, si girò bruscamente ed entrò nella sua stanza e infilò la giacca nuova, quella giacca di tela nera, lucente, quasi come seta, che Olan gli aveva fatto per i giorni di festa. E senza dire niente a nessuno, si incamminò per lo stretto sentiero lungo il bordo dell'acqua e attraverso i campi arrivò poi all'oscura porta della città e la superò e percorse le strade fino alla nuova casa da tè.